l'esistenza terrena quale riflesso dello spirituale. L'esistenza terrena di un essere umano è paragonabile a quella spirituale. Come si nasce in questa realtà umana, così si nasce nell'ambito dello spirito. Per questo Gesù ha parlato di una nuova nascita, Giovanni capitolo 3, mentre Paolo si è spesso riferito ai bambini in Cristo, 1 Corinzi 3:1. Come nell'esistenza umana, dopo il latte materno, si inizia a prendere cibi solidi, così nell'ambito spirituale si diventa adulti esercitando il proprio discernimento, un'evoluzione citata dall'autore della lettera agli Ebrei, con le seguenti parole: chiunque infatti usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia, perché è ancora un bambino. Il cibo solido invece è per gli adulti, o perfetti, cioè completi, che per via dell'uso hanno le facoltà esercitate a discernere il bene dal male. Ebrei 5:13-14. Come nell'esistenza umana si diventa adulti, ma non automaticamente maturi, cioè uomini o donne all'altezza del compito, così, nel campo spirituale, si diventa uomini completi, cioè in grado di agire come si conviene, solo mettendo in pratica la verità. Gesù infatti disse ai suoi discepoli di non comportarsi come tutti gli altri uomini, facendo cioè del bene a colui dal quale se ne riceve, essendo cordiali con chi è cordiale, perché tutti sono in grado di fare questo, ma ingiunse loro di amare i propri nemici, di pregare per loro, perché solo in questo modo si diventa perfetti, come lo è il Padre nostro celeste, cioè completi. Anche il cammino della vita è sorprendentemente simile al cammino spirituale. Se stai guidando la macchina, tutto procederà bene, se stai alla tua mano e rispetti il codice stradale. Se cambi corsia, oltre a trasgredire il codice stradale, andrai certamente a scontrarti con qualcuno. Nel campo spirituale tutto procede bene se prosegui sulla scelta della tua religione, ma se esci fuori strada e invadi il campo morale o spirituale altrui, ti scontri inevitabilmente. In questo i cristiani producono molti incidenti spirituali, non tanto perché trasgrediscono una qualche legge dello spirito, ma per il messaggio ricevuto dal Maestro. Gesù disse di essere venuto in questo mondo non per mettere pace, ma per mettere divisione, Luca 12:51. Perciò chi segue le orme di Cristo non rimarrà sorpreso se nell'amare e nell'essere cordiale con tutti giungesse a scontrarsi con altre culture. L'esempio della macchina porta anche a considerare la velocità. Se vai piano, in caso di incidente puoi anche cavartela. Ma se procedi alla velocità massima, difficilmente trovi scampo. Questa immagine porta a pensare alle convinzioni. Se sei profondamente convinto di essere nella giusta via, molto probabilmente vai sicuro, sicurissimo vai a tutta birra, a pazza velocità, ma se trovi un improvviso ostacolo mortale, per te è finita. Perdi la fede. Se invece sei diventato adulto, completo, vivrai la tua esperienza religiosa con il massimo zelo, Romani 12:1, ma con timore e tremore, Filippesi 2:12, sapendo di non conoscere tutta la verità, e la verità è solo Gesù Cristo. Tu vivi secondo quello che hai capito della verità. Solo così, la vettura della tua vita non sarà un veicolo mortale. L'automobile della tua sfera spirituale, se procedi piano e con cautela, non solo sarà un mezzo di vita, ma anche un mezzo per godersi il paesaggio e fare del bene al prossimo. Ho preso coscienza di questa verità mentre mi recavo in una località lontana a portare il Vangelo di Cristo. Per me quel giorno esistevano soltanto la partenza e l'arrivo. Ero talmente preso da questi due eventi da non osservare minimamente il paesaggio circostante mentre guidavo lungo il tragitto. Non gustavo la guida. Guidavo, ma non ero presente nel guidare. Lo Spirito Santo di Dio mi parlò e mi convinse che non stavo vivendo il presente. Spesso nel campo spirituale si è talmente presi da eventi particolari, come le riunioni domenicali o altri incontri speciali, da dimenticare che il valore della vita è giornaliero. Succede che si presta una tale attenzione a questi incontri, con riunioni di preghiera o raduni particolari, da dimenticare che si sta vivendo attimo per attimo davanti al Dio al quale si è affidata la propria vita. Molti predicatori, quando sono sul pulpito, pregano e chiedono preghiera per quello che devono dire, dimenticando di aver già parlato per giorni con molta gente, senza nessuna attività religiosa particolare di preghiera o di fulgido ardore. Questi comportamenti fanno riflettere se si è così tanto tesi e agitati per la propria partenza e arrivo da dimenticare di relazionarsi con chi accompagna nel viaggio in macchina, o se non si mantiene la stessa serietà e solennità quando si parla privatamente con le persone come quando si parla in pubblico, credo che si stia vivendo un cristianesimo ateistico, sentimentale e orgoglioso. Si vive da atei, quando Dio diventa più importante solo in certi momenti. Si vive un cristianesimo sentimentale, quando certi momenti alterano la propria normale tranquillità spirituale. Inoltre, senza rendercene conto, abbiamo paura di fare brutta figura in questi momenti così preziosi, e questo è orgoglio. Io devo guidare la macchina della mia vita con la consapevolezza che ogni istante della mia esistenza è uguale davanti a Dio, e se ci sono momenti decisivi è Dio a stabilirli e non io. Ovviamente, non si può nascondere il lato umano, per cui posso in particolari circostanze essere più agitato o meno, ma una cosa è il lato umano, altra è lo spirituale. Se mentre guido la macchina della vita soffro di una malattia non posso certamente ignorarla, ma un conto è il mio corpo, altro è il mio spirito. Anche i miei sentimenti non posso ignorarli. Quando mi sono sposato era visivamente commosso, al punto che mi veniva da piangere, ma i miei sentimenti in quel momento non avevano alterato la consapevolezza della presenza di Dio. La riunione di celebrazione del matrimonio non era per me meno o di più della prima sera di matrimonio. Dio era ed è la presenza viva e costante in ogni attimo. Egli è la mia gioia, come è presente nel mio dolore. Come disse l'Apostolo Paolo, Cristo, Gesù è la mia vita. Se è la mia vita, dove sono quegli spazi diversi da altri? Come se dicessi che, quando ci è il sole, possiedo un respiro diverso da quando ci è la pioggia. Dobbiamo accettare questa strettissima relazione tra la vita terrena e quella spirituale, anche perché, come è stato detto più volte da certi scrittori, l'esistenza di questo tipo di relazione, anche se noi non la conosciamo fino in fondo, non è altro che il terrestre quale riflesso del celeste, o l'ombra dell'originale del cielo. Una relazione, o meglio una correlazione come nell'essere umano, il quale è composto di una parte spirituale, anima e spirito, e una parte materiale, o corporea. Quando lo spirito è abbattuto, anche il corpo ne risente, come quando il corpo soffre, la parte spirituale non è immune. Proverbi 15 e 13. Che le cose terrene siano in stretta relazione con quelle spirituali è stato pure affermato da Gesù nella conversazione con Nicodemo, un dottore della legge. Se vi ho parlato di cose terrene e non credete, come crederete se vi parlo di cose celesti? Giovanni 3:12. Gesù ha potuto fare questa domanda provocatoria perché le cose terrene sono il riflesso delle cose celesti, altrimenti come si potrebbe parlare della sposa di Cristo se fosse un qualcosa di diverso da quella terrestre? Se la sposa nominata nel libro Apocalisse non fosse veramente una sposa, Dio stesso ci avrebbe ingannato con un'immagine falsa, certo. Non si sta intendendo che la relazione matrimoniale fra Cristo e la sua sposa sia basata sulla sessualità, come una fra due sposi, ma di certo la sposa di Cristo, chiamata anche Chiesa, avrà una relazione con Cristo che altri non hanno. Una relazione intima, che sulla terra è espressa mediante la sessualità, mentre in cielo, pur non comprendendo ora questa componente, non sarà di certo inferiore al rapporto terreno. Mentre sulla terra un tale rapporto fra l'uomo e la donna genera un altro essere umano, mi chiedo se non si troverà un massimo piacere nell'appropriarsi le insondabili bellezze di Cristo. Ogni volta che si conoscerà un aspetto di Cristo sarà un vero appagamento. Un appagamento, questo, di gran lunga migliore di quello terreno, perché quello terreno è passeggero, mentre il celeste sarà per sempre. Molti hanno della vita futura un'idea molto vaga e eterea, ma più leggo la scrittura, più essa invade. Come un fiume ogni mio pensiero, essa mi convince che il mondo futuro non sarà poi tanto diverso da quello a noi circostante. Se prendiamo alla lettera ciò che è scritto nel libro Apocalisse, quando ci saranno nuovi cieli e nuova terra, ci saranno alberi con delle foglie, fiumi, una città, allora ogni desiderio terreno di armonia con la natura sarà completamente appagato. Se queste descrizioni fossero senza un significato reale, perché Gesù avrebbe comandato di credere alle cose terrene per poter prestare fede alle cose celesti? Perché il libro Apocalisse termina specificando che queste parole sono fedeli e veritiere? Fedeli a che cosa? Il terrestre è dunque una profezia del celeste. Rivela le cose future, nascondendone anche la gloriosa verità e realtà. Dobbiamo vivere pienamente la nostra umanità in armonia con il volere di Dio se vogliamo godere pienamente la futura vita celeste. Vi è un'altra, bellissima espressione terrena che rivela quanto l'esistenza futura sia in strettissima relazione con l'esistenza umana ed è riferita alla morte. Gli ebrei parlavano del sonno della morte. Salmo 13:13. E anche l'ebreo Gesù, riferendosi alla morte di Lazzaro, ha menzionato il sonno. Giovanni 11:13. L'apostolo Paolo, ebreo anche lui, nelle sue lettere marcava questo aspetto, dicendo che i credenti morti dormivano. 1 Corinzi 15, 6-18-20. 1 Timoteo 4:13. Per molto tempo mi sono chiesto se questo accostamento fosse casuale oppure avesse un nesso con la vita pratica. E dopo molta riflessione ho compreso quanto mai sia azzeccata l'espressione dormire in riferimento alla morte di un essere umano. Quando dorme, l'essere umano non ha relazione con il presente. Per chi dorme, non esistono il tempo e gli avvenimenti. Ad una sorella in fede che era stata in coma farmacologico per 2 mesi, chiesi se era cosciente del tempo trascorso e lei mi rispose che quando si era svegliata le era parso di risvegliarsi dopo una normale dormita. In definitiva, lei non ha vissuto mentre gli altri continuavano a vivere. Inoltre, durante il sonno, a volte si fanno dei sogni talmente reali, nei quali si è concretamente coinvolti a livello sentimentale, che sembra di vivere una realtà. Quindi, mentre si dorme, si vivono esperienze prive di ripercussione nel presente, delle quali anche la stessa parola di Dio accenna, tramite il profeta Isaia. Avverrà come quando un affamato sogna di mangiare, ma quando si sveglia ha lo stomaco vuoto, o come quando un assetato sogna di bere, ma quando si sveglia è stanco e ha la gola riarsa. Così avverrà della moltitudine di tutte le nazioni che combattono contro il monte Sion. Questa è la realtà umana, una realtà come abbiamo considerato, che è l'ombra o il negativo del celeste. Se l'originale è nel cielo, il presente ci dice molto. La vita terrena è dunque il sogno del reale. La realtà che ora viviamo è come un sogno. Rispetto al celeste, tutto ciò che succede è reale, ha il suo valore al punto da determinare e condizionare il futuro. Ma quando ci saremo svegliati da questo sonno, sarà come se nulla fosse successo. La gioia, il dolore, gli affanni rimarranno come un ricordo che non condiziona l'esistenza celeste, altrimenti la beatitudine eterna non sarebbe pienamente tale. A restare saranno le realtà spirituali, perché eterne, come Gesù Cristo quale agnello morto per i peccatori. Ma lo svolgersi dell'esistenza umana sarà un brutto o un bel sogno. Brutto per i perduti, bello per i salvati. 2 giorni prima di morire, a 91 anni, mia mamma mi confessò: «Ellero, mi sembra tutto un sogno. Nessuno ha mai raccontato della sua morte, ma sono sicuro che in quei momenti non si stia recitando». Le parole di mia madre hanno toccato il mio cuore. Se la mia esistenza terrena è un sogno, a maggior ragione agognerò la vera realtà. Quando l'autore del libro Ecclesiaste ha scritto che tutto è vanità, voleva dire che tutto è passeggero, ma possiamo anche aggiungere che tutto è un sogno. Per questo dico con il salmista: quanto a me, per la mia giustizia, contemplerò il tuo volto. Mi sazierò, al mio risveglio, della tua presenza. Salmo 17:15. E con Giobbe dico pure: io lo vedrò a me favorevole. Lo contempleranno i miei occhi, non quelli d'un altro. il cuore, dal desiderio, mi si consuma. Giobbe 19:27. Ed è vero. 2013 0213. Ellero.